respiro. Buon pomeriggio care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi a Respiro si parla di uomini e donne che hanno deciso di fare della loro vita, almeno per un certo arco di tempo, un esempio per tutti. Stiamo parlando di 2500 famiglie italiane che hanno aderito alla campagna Coop risparmia le energie e che per 6 mesi, ma l'esperimento non si ferma qui, hanno vissuto cercando di usare poca acqua, poca energia, hanno deciso di usare poco l'auto, hanno vissuto comprando con attenzione e facendo particolare caso agli imballaggi, agli incarti, insomma famiglie all'opera per abbattere gli sprechi di ogni genere. Un lavoro che ha coinvolto molte persone, che ha dato una fotografia di un'Italia di famiglie medie attente al risparmio energetico. Il 43% delle famiglie ha dal 60 al 100% di lampade a basso consumo, si privilegiano elettrodomestici ad alta efficienza, li possiede il 70% del campione, ma poco o nulla si fa sul versante del risparmio dell'acqua, della gestione dei rifiuti e degli acquisti ecocompatibili, e soprattutto si fa pochissimo quando si parla di mobilità sostenibile. Detto tutto questo, andiamo a sentire com'è andata. Ci siamo fatti un paio di chiacchierate con due famiglie, una del nord e una del sud. Allora cominciamo da Napoli. Siamo andati a casa della signora Eleonora Briganti, una donna, madre di due adolescenti, particolarmente attenta e che ha cercato, gliene diamo merito, di mettere in atto tutte le regole del buon vivere, risparmiando il più possibile o quasi. Tutte le regole? No. Non siamo ancora riusciti a mettere in pratica tutte le regole, però sicuramente abbiamo modificato parte dei nostri comportamenti, abbiamo iniziato a cambiare le nostre lampadine fluorescenti con quelle a risparmio energetico, abbiamo messo i filtri ai rubinetti, insomma, per cambiare la portata dell'acqua. Vabbè, abbiamo effettuato anche una ristrutturazione di casa, quindi abbiamo potuto modificare gli scarichi, per esempio dei water, abbiamo messo il doppio scarico, insomma tutte cose che ci venivano indicati da questi moduli online che vediamo, insomma, della Coop, in questo Coop Energia, che insomma andiamo lì a consultare abbastanza spesso. E per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, perché vedo dal lavoro che è stato fatto da Coop che tutte le famiglie che hanno partecipato a questa campagna sul risparmio energetico hanno avuto qualche difficoltà nel risparmiare proprio l'acqua. Voi come vi siete gestiti l'acqua a disposizione? Cosa avete fatto? L'acqua è in effetti, al di là dei filtri e degli scarichi doppi che abbiamo già installato, in effetti noi già non effettuavamo, che so, docce al posto del bagno, anche noi credo che proprio una riduzione notevole dell'acqua, del consumo d'acqua non c'è stato, insomma, i nostri sprechi, insomma il nostro utilizzo dell'acqua è più o meno simile, è difficile diminuirlo notevolmente. Senta, lei ha due figli, mi diceva, sì. Di quanti anni? 16 anni e 13 anni. È stato facile o difficile coinvolgerli in questa operazione e quali risultati avete ottenuto? No, non è molto facile coinvolgerli, per la verità, anche se rispetto a quello che noi, insomma, la maggior parte del lavoro, diciamo, lo effettuiamo noi adulti, però sicuramente noi abbiamo installato una ciabatta, una multipresa con un pulsante di spegnimento e il lavoro che effettuiamo su di loro è quello appunto di spegnerla totalmente, nel non lasciare in stand by computer e varie, ma spegnerlo con questo pulsante, e insomma a volte ci riusciamo, sicuramente è migliorato perché ormai è quasi entrato nel loro modo di pensare, in automani, i loro automatismi, e quindi lo effettuano, però insomma non sempre, devo dire. Ecco, invece per quanto riguarda la spesa, come vi siete mossi? Avete fatto attenzione a quello che compravate? Avete comprato prodotti ecocompatibili o soprattutto, non so, prodotti che provenissero da produttori locali? Cosa avete fatto? Avete cambiato i vostri atteggiamenti rispetto alla spesa normale? Abbiamo tentato, per la verità noi partecipiamo anche a un progetto di GAS, insomma dei gruppi di acquisto solidali, quindi in effetti per la verdura forse al di là di quella che acquistiamo da Coop, insomma parte di verdura la acquistiamo direttamente insomma da produttori proprio locali. E poi tramite Coop stiamo tentando di effettuare l'acquisto di prodotti col dispenser, dei prodotti sfusi. Ecco, un'altra cosa che vedevo è il modo di muoversi, quindi la mobilità. Anche in quel senso avete stravolto le vostre abitudini o eravate già virtuosi su questo fronte? Non siamo molto virtuosi ancora adesso, noi utilizziamo l'auto per andare al lavoro perché ci crea problemi insomma, utilizzare i mezzi pubblici, autobus, treni e quant'altro. Per tutti e quattro o l'auto no. Lei, l'auto il marito? Io, mio marito ha un'auto aziendale che comunque chiaramente usa e io ho l'auto mia familiare, insomma, quindi abbiamo due auto che si muovono tutti i giorni, però nel limite del possibile, ecco, nei nostri tempi liberi, quando ci muoviamo qui per la nostra cittadina, tentiamo sempre di non utilizzarla, insomma, o di utilizzarla proprio nello stretto necessario. È difficile per una persona che vive a Napoli fidarsi, diciamo, dei prodotti che vengono dalla terra del napoletano, che sappiamo che in molti casi è stata devastata, no? Dallo scarico di rifiuti illeciti, certo, e tossici. Quindi voi come riuscite ad avere ancora questa grinta, questa forza, per poter affidare ancora la vostra fiducia? Insomma, questa è una cosa che io mi chiedo, perché devo dire, avendo due bambini, mi farebbe paura, ecco, le dico proprio onestamente. Non solo a lei, fa paura anche a noi tantissimo, tant'è che noi abbiamo, in questo senso abbiamo cambiato molto i nostri metodi di valutazione dell'acquisto, nel senso che io adesso difficilmente vado al mercato, che qui insomma è acquisto a cuor leggero da chiunque. Noi ci rivolgiamo a questi produttori di cui abbiamo avuto certificazioni, certo le certificazioni potrebbero lasciare il tempo che trovano, però almeno le vediamo, insomma vediamo dei certificati, vediamo, e poi sono persone che ci danno fiducia perché sono molto attente anche loro nel proporci i loro prodotti, ci credono, almeno questo è quello che sembra a noi, insomma, che loro ci credono in prima persona e quindi ci danno quel po' di fiducia di rivolgerci a loro, insomma, chiaramente non lo facciamo con tutti, siamo molto mirati, siamo molto attenti, insomma. Non lo fate a cuor leggero, diciamo. No. Ma sentiamo invece a Nord, a Castel San Pietro di Bologna, cosa hanno fatto a casa del signor Bibi Bellini. C'è da dire che un'attenzione al risparmio energetico di partenza io ce l'ho sempre avuta e mia moglie anche. Noi siamo venuti ad abitare in una casa in campagna e quindi traslocando e venendo qui ad abitare in affitto abbiamo acquistato degli elettrodomestici nuovi e li abbiamo acquistati quelli tutti in classe A. Ne abbiamo approfittato per comprare lampadine non ad incandescenza. E quindi voglio dire, c'era una sensibilità da parte nostra, però il questionario e questo partecipare a questo progetto, come dire, impone un'attenzione superiore, un'attenzione particolare. Ad esempio, da quando l'attenzione sull'acqua, sul consumo di acqua, da quando stiamo facendo seguendo questo progetto, io e mia moglie praticamente gareggiamo a non sprecare acqua. Laviamo l'insalata, siccome abbiamo anche l'orto fuori e la compostiera, utilizziamo l'acqua per innaffiare l'orto. In bagno, non, pur avendo i due interruttori dell'acqua, non tiriamo l'acqua tutte le volte. E tutta una serie di altri accorgimenti, soprattutto. Ad esempio, vi fate la doccia tutti i giorni? Io no, non mi faccio la doccia tutti i giorni, mi lavo al mattino a pezzi riempiendo il lavandino d'acqua, quindi mi lavo la faccia, le ascelle e il collo. E mia moglie invece è più pulita di me, ma questo è un fatto, penso classico tra uomini e donne, no? Senta, per l'igiene della casa invece come avete fatto? Avete cercato di impattare il meno possibile, non solo nello spreco d'acqua, ma anche utilizzando, detersivi piuttosto che meno carta? Come vi siete mossi in quel senso? Per le pulizie della casa, adesso sto facendo ad esempio le pulizie della casa, noi facciamo raccolta differenziata, differenziamo tutto e poi ogni settimana o due settimane, dipende da quanto materiale abbiamo, andiamo all'isola ecologica e consegniamo il tutto. Anche per quanto riguarda le pulizie, acquistiamo qui, forse fare pubblicità, però vuol dire c'è tutta una linea di prodotti che sono meno impattanti, che si possono acquistare e noi tendiamo ad utilizzare quelli. Niente, soprattutto l'attenzione c'è anche su quello che è l'impatto per la spesa. Cioè il tema del chilometro zero è un tema reale, nel senso che noi cerchiamo, vivendo anche in campagna, di acquistare prodotti di stagione, di acquistarli anche da piccoli contadini che sono qui attorno a noi. Ci sono mercatini e anche questo, abbiamo una sola auto e ci muoviamo prevalentemente in bicicletta. Ecco, questa è la mia nota di vanto, ad esempio. E per quanto riguarda l'alimentazione della casa, usate energie rinnovabili, non so, pannelli solari oppure avete ancora? Ecco, questo no, purtroppo no, perché noi siamo in una casa in affitto e quando ci siamo arrivati, non, sebbene avessero ristrutturato di recente l'abitazione, non c'era prevista questa. Non c'erano pannelli solari. È vero che vivendo in campagna d'inverno spesso accendiamo la stufa a legna, perché abbiamo una vecchia stufa a legna che abbiamo restaurato e che ci scalda buona parte della casa con anche la possibilità di cuocerci qualcosa mentre stai scaldando, e questo è molto bello, perché mentre scaldi magari riesci a cuocere delle patate al forno e poi hai anche l'acqua calda per farti una tisana nel pomeriggio. Respiro. Dunque gli italiani risparmiano, riciclano, ma consumano molta acqua e sono poco sensibili quando si parla di auto. Buongiorno, bentornati a Respiro, stiamo parlando ovviamente di una ricerca condotta dalla COP e allora siamo in compagnia della coordinatrice scientifica di questo progetto, Alessandra Vaccari, buongiorno. Sì, è un'Italia un po' sola, è un'Italia che si affida all'informazione molto spesso più pubblicitaria che mirata all'educazione, a un vero risparmio. È un'Italia però molto attenta, molto sensibile a quelli che possono essere gli elementi sia di innovazione di tipo anche tecnologico legato a certi prodotti, sia ovviamente di efficienza nell'uso e quindi di capacità della propria famiglia di ridurre sensibilmente i consumi sia di acqua che di energia, con un conseguente ovviamente risparmio non solo delle emissioni ma anche di tipo economico. Quindi diciamo è una famiglia che non attende altro che in qualche modo di essere aiutata a fare meglio, sia dalle istituzioni, per quanto riguarda la facilitazione all'accesso dei finanziamenti, gli incentivi come ad esempio il fotovoltaico, ma anche dalle imprese che devono essere in grado di fornire in modo più determinato prodotti attenti all'ambiente. Ecco, lei parlava, intanto questo lavoro è un lavoro che durerà per l'intero anno, quindi adesso questa è una fase intermedia in cui si può già cominciare a vedere come si sono orientate queste famiglie. Detto questo, lei diceva appunto che ci sono dei temi su cui gli italiani sono virtuosi, quindi nello specifico il risparmio dell'energia elettrica, l'utilizzo anche di energia elettrica con lampade a basso consumo, elettrodomestici ad alta efficienza, però poi ci sono degli anelli deboli in questo lavoro che lei appunto ci stava descrivendo. Sì, guardi, il lavoro si svolge in tre fasi sostanzialmente. La prima fase è quella che noi chiamiamo di audit tecnicamente, insomma, che significa di diagnosi dello stato, dell'arte, della propria vita, proprio, non solamente dell'abitazione, ma anche proprio dei propri stili, quindi l'uso della macchina piuttosto che quanto tempo si sta davanti alla televisione, eccetera. In questa fase noi abbiamo visto diciamo un gruppo di famiglie che in qualche modo hanno delle grandi aree di miglioramento, con alcune differenze proprio rispetto ai temi che abbiamo trattato. Quindi, come diceva lei, sicuramente, diciamo, ad esempio, il 43% delle famiglie ha dal 60 al 100% di lampade a basso consumo, perché lei sa che con i certificati bianchi queste lampade sono state date molto spesso anche in omaggio, quindi tutti noi abbiamo nella dispensa questo numero considerevole di lampade, e questo ha fatto sì che là dove abbiamo potuto sostituirle le abbiamo sostituite. Abbiamo anche un numero abbastanza alto dell'acqua, di attenzioni al risparmio dell'acqua, anche se su quest'area si comincia ad avere una percentuale di lavoro, perché molti usano ancora l'acqua del rubinetto per l'irrigazione, il 68%, o oltre il 52% dichiara di non avere gli scarichi a doppia cacciata, che invece adesso sono abbastanza di uso abbastanza ordinario, soprattutto nelle case nuove. E il 38 più o meno, cioè dal 38 al 48% afferma di non aver mai acquistato prodotti per l'igiene della casa con l'etichetta Ecolabel, quindi insomma sono percentuali abbastanza rilevanti. Quindi diciamo c'è una parte di lavoro dove abbiamo dei comportamenti che già dimostrano una certa attenzione, ma abbiamo delle percentuali molto alte di famiglie che invece ancora devono fare delle cose. La seconda parte del nostro lavoro sarà quello invece proprio di un piccolo piano di azione, cioè su queste attività, su questi comportamenti che noi abbiamo rilevato, le famiglie dovranno mettere in atto dei miglioramenti piccoli, grandi, che richiedono investimenti, che invece sono a costo zero, però un piccolo piano di azione per il miglioramento. Su questo miglioramento noi daremo ovviamente consigli, forniremo tutte le indicazioni che sono necessarie, abbiamo uno strumento, abbiamo questo sito dove le famiglie possono mettere le domande, i quesiti, e noi facciamo il coordinamento dei tecnici, perché la materia è molto complessa e le competenze sono diverse, e quindi mettiamo a disposizione tutto quello che serve, sperando che delle 1700 famiglie registrate, poi in realtà diciamo l'adesione è stata superiore, però in questo momento i questionari che stanno tornando sono poco meno di 2000, e sperando, ecco, che di queste famiglie molte riescano ad avere dei risultati significativi. Fin qui abbiamo parlato di come le famiglie possono risparmiare su tutti i fronti, consumare il meno possibile. Il tema degli acquisti, abbiamo visto, è ancora uno degli anelli deboli per le famiglie italiane medie, anche se stanno cominciando a crescere i negozi bio che propongono prodotti sfusi, come ci racconta Paola Santi, direttore marketing di Ecor. Allora, Ecor nasce come distributore di prodotti biologici, nasce ben 10 anni fa dalla fusione di quattro aziende che si occupavano in maniera territoriale appunto della distribuzione dei prodotti biologici. E diciamo che non sto qui ad annoiarmi un pochino con la storia di Ecor, perché cerco di essere sintetica andando appunto al tema della puntata, e volevo soltanto specificare che come Ecor nel 2002 è nata un'iniziativa di collaborazione con i punti vendita ed è stato creato un progetto aggregativo di negozi specializzati. Questo progetto aggregativo si chiama Bio, e i riferimenti del sito sono www.b-io.it, e assieme a questo progetto aggregativo con i negozi abbiamo cercato di creare tutta una serie di attività che ponessero il distributore e i negozianti assieme nelle condizioni di avvicinare sempre di più il produttore e al consumatore, e come tali tutte le attività che vengono svolte all'interno dei negozi bio cercano coerentemente di rispondere a questo tipo di messaggio. Quindi diciamo ci sono anche nei vostri negozi, innanzitutto quanti sono questi negozi? I negozi bio sono 250, sparsi un po' in tutta Italia, sono negozi che si sono legati ad Ecor con questo progetto esclusivamente valoriale perché si sono riconosciuti in questa iniziativa e quindi all'interno dei punti vendita vengono realizzate tutta una serie di iniziative che possono avvicinare appunto il prodotto, il consumatore al mondo della produzione, come l'iniziativa della trasparenza. Oppure come l'iniziativa degli shopper ecologici, delle borse, l'iniziativa anche dell'arredo, degli sfusi, del materiale promozionale che viene distribuito all'interno del punto vendita, che è fatto interamente con carta riciclata, con stampe in colori vegetali, cioè tutta una serie di iniziative che cercano di portare coerenza al mondo del biologico e di portare coerenza al mondo anche del consumatore. Ecco, cercando di portarlo ad adottare dei comportamenti sempre più sostenibili, ecco. Lei ha citato vari esempi di quello che succede all'interno di questi negozi, tra questi c'è il tema del vendere i prodotti sfusi, è una cosa che sta cominciando a tornare, no? tra sì. Le persone, era una cosa a cui noi degli anni 70, diciamo, io ero bambina, però io mi ricordo che c'era questa possibilità di andare in latteria e comprare singoli prodotti, magari andare proprio con la bottiglia. Come funziona oggi invece questo modo di vendere? Sfuso. Sì, diciamo che anche all'interno dei punti vendita abbiamo sentito l'esigenza di portare questo tipo di esperienza. Nei nostri negozi, la maggior parte sono negozi biologici specializzati, nati da iniziative dei primi pionieri di negozianti biologici, eccetera, dove spesso c'erano i sacchi di sfuso, erano proprio i primi negozi dove si ritornava a questo tipo di comportamento. Poi sai, anche la normativa per la sicurezza, per l'igiene del prodotto, un po' ha bloccato questo tipo di comportamenti e si è andato sempre più verso un prodotto confezionato. Oggi c'è un po' un ritorno a questo tipo di esigenza e la prima esperienza che abbiamo portato avanti è stato il lancio dei detersivi sfusi. Due detersivi in particolare, che sono quelli più importanti per l'utilizzo dell'igiene della casa, come i piatti e stoviglie e il detersivo per capi delicati, che sta andando molto bene perché siamo molto contenti dell'iniziativa. Abbiamo fatto uno studio sul risparmio della plastica che ci porterà a questo tipo di operazione. Abbiamo cercato anche di premiare il consumatore che adotta questo comportamento virtuoso, proponendogli questo prodotto anche ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che è poi il prodotto confezionato monouso. È tutto, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.